Orvieto, 10 giugno 1941. La storia più divertente è quella del nostro sconosciuto giornalista. Qui la nostra prepotenza ha spezzato risolutamente tutte le barriere e il nostro intuito ha subito fiutato giusto. Era molto tempo che leggevamo i suoi articoli con un misto di curiosità e di stupore. Sentivamo fra le sue righe fremere i nostri stessi sentimenti, le nostre medesime ribellioni. Ma avevamo quasi paura di credere che fosse vero. Sapevamo benissimo che la massima parte dei giornalisti possiede in questi momenti le nostre stesse idee e condivide le nostre aspirazioni. Ma questo in teoria. In pratica, poi, tutti si inchinano al padrone. Fatto sta che Loretta si decise, un giorno, a indirizzargli una lettera abilissima, in cui ella lodava la sua bravura e onestà di scrittore e lasciava intravedere molto chiaramente la vera causa di questa sua ammirazione. Egli rispose, e anche le sue parole erano fin troppo eloquenti. Decidemmo di andarlo a trovare. Furono momenti un po' brutti perché siamo ambedue timidissime e la situazione non era certo molto facile. Ma comunque ce ne partimmo appositamente da Orvieto, dopo aver deciso che doveva trattarsi di una persona da bene e cortese. Chissà perché, avevamo ben intuito perfino la sua situazione familiare. Doveva essere ammogliato con una signora dolce e graziosa, che si prendeva cura dei suoi articoli, e tra i suoi rampolli non dovevano esserci che bambine. Non è tipo da figli maschi, avevamo affermato categoricamente. Sbagliammo solo il taglio della sua giacca. Partimmo animate da fiere intenzioni. Fu un po' faticoso rintracciarlo, ma noi fummo ostinate. Ci diede appuntamento a casa sua. Là facemmo conoscenza con sua moglie e le sue bambine. E a un tratto diventammo amicissimi, ma proprio amici, come se ci conoscessimo da anni. Rimanemmo insieme a discutere molto a lungo e noi sentimmo pronunciare le nostre stesse parole, sentimmo esprimere i nostri medesimi sentimenti. Eppure non ci eravamo mai visti. Prima di andar via, la signora ci disse con grazia affettuosa: «Ricordatevi che la nostra casa sarà sempre vostra amica». Che cos'è dunque questa forza che ci spinge gli uni verso gli altri, senza nessuna ragione apparente, senza interessi egoistici né curiosità banali? Che cos'è questo bisogno che abbiamo di conoscerci e unirci, questa gioia che si prova nell'incontrarci? È certamente il sintomo di una necessità spirituale che tende a riunire quei pochi uomini, non troppo pochi del resto, che hanno ancora, malgrado tutto, fede nella forza dell'umanità, nell'autonomia dello spirito libero.